Buonasera a tutti, siamo giunti al termine della prima trasmissione dell'anno, l'appuntamento è per martedì prossimo, il ringraziamento va ovviamente a chi ci resiste e a chi ci resiste più di tutti, cioè a Walter che dobbiamo ringraziare per la corta regia. Buonasera a tutti e grazie dell'attenzione. Buonasera.